Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, buona domenica, accomodatevi, dai, e allora, voi che fate, mangiate o saltate? Beh, intanto che decidete, io saluto il dottor Attilio Speciani, allergologo immunologo clinico a Milano, che ha già preso la sua decisione. Buongiorno, buona domenica. Ma buongiorno, buona domenica a tutti, certo che ho deciso, sono qui apposta perché si mangia a pranzo ed ha un senso profondo questa cosa, quindi sì, ho scelto, mangiamo a pranzo, poi chi lo sa, magari qualcosa stasera si può saltare, si fa un jump, come si dice. Eccola lì, dottor Speciani, non dica si salta la cena, il salto della cena, si chiama dinner canceling, che è la dieta che ha seguito Fiorello e che l'ha rimesso in forma. A me sembrava già perfetto, ma lui è sempre perfetto. Non lo so, io non lo guardo con questo, con questa ottica, così chiamiamola. Però era bello fatto, bravo. Sentiamo. Per affrontare una cosa del genere, 3 puntate a settimana, ti devi anche preparare anche a livello fisico. Per cui io dal 31 settembre non ho più mangiato. È una roba che io non auguro a nessuno. All'inizio facevo lo step, facevo così. Io mi giravo di qui e la panza andava di là. Ci ho dovuto mettere tanto impegno. Quindi, e non è che facessi una dieta, non mangiavo. Basta. Quando tu sei a dieta, chiunque ti invita a cena. Quelli che abitano nel tuo palazzo, d'incanto, cominciano a fare grigliate. Io non ho capito perché quelli del primo piano, del secondo piano, cominciano a fare grigliate. E io, niente, nasello. Guardate, io vi faccio vedere come sono conciato. Guardate qua, sono incavato. Mi è diventato incavato il mio Fiorello. E poi quel 31 settembre. Quel 31 settembre è una data interessante, che mi sa che lui si apre, sai, queste cose che lo dice una falsa verità, no? E il 31 settembre perché non c'è. Non c'è, 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Hola. Allora, una dieta che funziona, di cui noi abbiamo parlato, adesso la chiamano dinner canceling. Ma noi l'abbiamo sempre chiamata, come lo chiama la cultura inglese, anglosassone, scientifica, time restricted feeding. Che non vuol dire? Capace, bello, è carina, parole. Che vuol dire che si riduce il tempo in cui si mangia a 6-7 ore. Per cui ti svegli al mattino, fai una bella prima colazione, fai un pranzo e poi magari fai una micro merenda o una merenda in modo tale che il tempo di assunzione alimentare sia di circa 6-7 ore. Dopodiché stoppi dal punto di vista generale e per 16, 17, 18 ore smetti di mangiare, bevi solo acqua, bevi tè, bevi caffè, se non zuccherato ovviamente, e ti ritrovi con una situazione che passa attraverso la notte, che rappresenta un po' il modo in cui gli animali preistorici e anche noi quando eravamo preistorici, paleolitico eccetera, eravamo in grado di mangiare, quindi mantenendo l'assunzione durante il giorno, quelle poche ore che avevamo a disposizione. Questa cosa dà dei risultati fantastici. Non solo a livello di peso. Ma no, il peso è un effetto. Anzi, devo dirti che è uscito proprio a fine di dicembre uno degli articoli più importanti del New England Journal of Medicine. Per i nostri commensali della domenica è la più importante rivista mondiale di medicina. Un articolo proprio tutto dedicato alla digiuno intermittente, a questo tipo di logica, dove si dice che gli effetti positivi in realtà non dipendono dal calo di peso, che pure c'è, ma dipendono dal fatto che questo atteggiamento riduce l'infiammazione. Noi siamo anni nel nostro centro che lavoriamo su Eurosalus, ne parliamo spesso e volentieri di come si possa gestire questa cosa, ed è una modalità che aiuta e educa l'organismo a trattare il diabete, le malattie cardiovascolari, tutta una serie di cose. Però io devo dire, siamo qui, è domenica, siamo all'interno di una trasmissione bellissima. Grazie, perfetto. Grazie. E posso dire che di questa cosa ne parliamo con Nicoletta nelle bufale in tavola che facciamo insieme, nelle comunicazioni, da anni, perché questa cosa è arrivata oggi ad una precisazione scientifica, se ne è accorto anche Fiorello, giustamente, bravo, ne va bene suo, però devo dire che è un tema interessante e tra l'altro gestibile. Poi Mi piace come Nicoletta l'ha gestito, perché il concetto del saltare la cena, in chi è un po' vecchiettino come me, lei no, perché no, per carità, però c'è il caffè di Gramellini che è perfetto, perché a quelli della nostra età, quando sentiamo salto della cena, questa espressione ci rimanda al castigo, infatti Gramellini dice in inglese fa tutto un altro effetto. Esatto, quindi time restricted feeding, cioè manteniamo il tempo di assunzione alimentare in quelle 6-7 ore e poi il resto beviamo. C'è un'energia potente. Tra l'altro io la sfrutto ad esempio nella mia storia, perché mi consente, facendo questo, quindi quando faccio attività fisica la sera, tipo canottaggio dalle 8 alle 9 e mezza, 10. Ma guarda un po' che atleta, adesso è incavato anche lei. No, non sono incavato, io sono piacevolmente formoso, mi piace mantenermi così. Però aiuta, perché torni però a casa. Però non è per tutti. Dottor Speciani. Sì e no, può essere per tutti se guidata dal punto di vista medico. Dal punto di persone mediamente sane, senza gravi problemi, possono iniziare, ad esempio un consiglio che diamo è di iniziare a smettere di mangiare alle 5 del pomeriggio con una merenda. Poi man mano ti viene più spontaneo. Una o due volte alla settimana. Due volte alla settimana. Così se i vicini del primo e del secondo piano ci invitano, possiamo dire ma assolutamente, certo che andiamo vengo. E poi facciamo il salto o comunque il time restricted feeding il giorno dopo. Ecco, oppure come sempre scrive il grande Caramellini, l'idea di raccontare che si è a dieta può essere una scusa fantastica. Meraviglia. Per gli orsi, come dice lui. Adesso mi è venuto il sospetto anche che non hanno tanto voglia di uscire, così possono declinare gli inviti. Mi è venuto un sospettino su mio marito. Allora, adesso ci fermiamo, fermatevi anche voi, restiamo. C'è Filippo Oreggi in regia alla parte tecnica oggi e Laura Vanossi, come sempre, in redazione. La bufala in tavola. Vero che ti amo ancora, vero che ti ho tradita, falso, è stato un gioco falso, io lì non c'ero, vero che sei la sola, vero che ti ho ingannata. Vero o falso, che tradotto in linguaggio della bufala in tavola, dottor Speciani, è sarà vero o sarà una bufala? Eccola qua, e siamo alla bufala in tavola. Perché parliamo di bufale? Perché? Perché quando si sta affrontando un periodo di cambiamento, e molti di noi in questo periodo dell'anno, tra i buoni propositi del nuovo anno c'è sicuramente quello di seguire uno stile alimentare più salutare, bene, quando stiamo affrontando un cambiamento siamo più vulnerabili e cadiamo più facilmente nelle trappole, quindi si tende a seguire le mode e a credere alle bufale. Un problema, pensate, che secondo un'indagine condotta dal Centro di Ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore riguarda un italiano su due. Dottor Speciani, qua siamo in due. Siamo in due, decidiamo chi bufala qui. Mi sa che sia io quella che crede no, alle bufale. No, non è vero. E lei non può, è un tutur. Bene, ne parliamo oggi con la professoressa Gwendalina Graffigna, direttore del Centro di Ricerca Engage Minds Hub, che ha condotto la ricerca, che è in linea con noi. Buongiorno professoressa Graffigna. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie. Che cosa racconta la vostra bella indagine? Intanto ci dice che un italiano su due crede alle bufale, quindi... Esatto, sì, che il problema è molto più vicino di quello che pensiamo e purtroppo tante volte anche delle persone, insomma un po' tutti noi, come dicevate voi, potremmo cadere trappola di bufale ben confezionate. Infatti emerge che chi crede più frequentemente alle bufale poi è di un target anche abbastanza evoluto, nel senso che sono persone diplomate, che stanno bene, insomma, e che la cosa che ci ha colpito è che si informano molto spesso in ambito agroalimentare, per cui potremmo pensare che chi cade nelle bufale è menefreghista, e invece no, tendenzialmente cerca pure di informarsi, solo che poi cade in errore. Altra cosa che ci ha colpito è che se effettivamente metà degli italiani frequentemente crede nelle bufale, di questi più di un terzo tende a ricondividerle sui social media e quindi diventando un attore inconsapevole della diffusione delle bufale nel settore agroalimentare. Bufale che appunto sono un rischio non solo per la salute dei singoli ma anche per il portafoglio dei singoli e nonché anche un po' per l'economia e la salute pubblica e collettiva. Infatti abbiamo visto come il credere alle bufale va a cambiare, a spostare le abitudini alimentari. Ad esempio? Che succede? Per cui, ad esempio, tutti quelli prodotti che oggi vengono molto pubblicizzati come prodotti senza, insomma, adesso se si va al supermercato l'etichetta senza non la si lega a nessuno, che sia senza glutine, senza lattosio, senza zucchero, senza pesticidi, senza tutto. Ecco, effettivamente i prodotti senza tendono a essere una delle principali preferenze di chi ha ammesso di credere un pochino di più alle bufole, così come per controparte i prodotti quelli arricchiti o super processati, anche questi sono dei prodotti che hanno una maggiore accettabilità, diciamo, tra chi ha creduto di più alle bufole. E l'altra cosa che ci ha colpito, i prodotti più familiari, cioè chi crede di più alle bufole dichiara che il tema della familiarità, cioè di avere conosciuto, già conosciuto il prodotto, soprattutto che sia un prodotto del contesto italiano, non tanto esotico, è ciò che più alletta. Anche questo è un po', ci ha stupito, insomma, quindi un po' chiusura all'esotico e apertura a il prodotto sotto casa, che purtroppo certe volte non è detto che sia effettivamente più nutriente, più salutare di altri tipi di prodotti. Dottor Speciani, certo che è curioso l'italiano, si informa e poi scivola. Si informa, il tema anche dal punto di vista giornalistico è un tema tosto, uno dei lavori più importanti è proprio quello della capacità di smascherare determinati elementi, quindi di verificare soprattutto le fonti. Però è vero che il gossip, chiamiamolo, perché alla fine poi il passaggio delle bufale sui social è molto simile al concetto di gossip, è un gossip condiviso, secondo me, non so Graffigna se anche tu la pensi così, ma è come una partecipazione al gruppo, no? In realtà ti dà una sorta di solidità. Nelle fasi di cambiamento, si diceva, c'è questo stato di fragilità e uno si sente parte del branco e quindi dice, ma lo dicono tutti e quindi sarà vero. Esattamente, questo è molto in linea con quello che abbiamo verificato con la nostra ricerca, nel senso che emerge che chi crede più spesso alle bufale dichiara anche che è importante per lui sentirsi approvato dal suo gruppo di pari, quindi da amici, familiari, insomma l'entourage in cui viviamo, e che soprattutto si affida al consiglio altrui per la scelta dei prodotti alimentari. Quindi questo effettivamente torna, ecco, l'abbiamo misurato con dei parametri di psicologia. E appunto l'altro elemento che, come Gian Nicoletta sottolineava, che ci ha colpito molto, è che sono proprio gli italiani che si dichiarano oggi più insoddisfatti del loro stile di vita e anche un po' più insicuri sulle loro possibilità di gestione e di controllo dello stile di vita e della dieta, che sono quelli più potenzialmente preda delle bufale. Ma professoressa Graffigna, mi dica la verità. Anche lei avrà creduto a una bufala? Certamente sì. A quale dove ha boccato? Ma io direi che facciamo più lunga la lista di quelli che abbocchiamo piuttosto che di quelli che non abbocchiamo. Ma infatti io vorrei spezzare anche un po' una lancia e ringraziare anche questi italiani che hanno partecipato alla nostra ricerca, perché comunque avere anche un po' il coraggio in un'indagine come questa di dichiarare che hanno creduto ad una bufala e quindi fare un po' un mea culpa è già comunque. E poi voglio dire, alcune bufale ci piacciono, ad esempio l'ananas, perché è stata una delle prime bufale, l'ananas che scioglie i grassi, è rassicurante. Assolutamente. E male non ci può fare. È aumentato il mercato dell'ananas quando c'è stata la dieta Mazel che ha imperversato 30 anni fa, c'è stato un lancio. Che male può farci? Lo sappiamo un po', esatto. No? Ci sono delle bufale molto più costose. Adesso ne sta girando una, posso dire. Sì, che svegliamola. La spremuta di sedano è il portento totale, no? Che ogni tanto ci sono dei cibi che vengono rilanciati da questo punto di vista. Tra l'altro è cattivissima. È cattivissima? È buona. Io l'ho assaggiata. A me piace farmi il sedano insieme col cetriolo, col rapanello, con le cose, eccetera. C'è sempre un mix. Però adesso sta essendo lanciato il sedano e quindi questo adesso per qualche mese lo vedremo girare dappertutto. Poi fa tutto, no? Sembra che faccia tutto. Sì. C'è da dire che, mi permetto di dire anche al collega clinico, c'è da dire che la letteratura scientifica poi sulla nutrizione, sull'ambito food è molto in evoluzione e anche spesso con dati non così univoci, quindi purtroppo il mondo come è stata elegante la professoressa Grafigna, come è stata elegante, ma fa la psicologa mica per niente, eh. Da piccolo volevo studiare diplomazia, poi ho detto no, guarda, fai la psicologa che è meglio, va bene. Professoressa Grafigna, grazie per essere stata con noi, complimenti, buona giornata. Grazie, a presto, buona giornata. Dottor Speciani, a proposito di bufale, allora quella del centrifugato di Sedano che non fa crescere i capelli, non fa guadagnare, ecco, fermiamo lì, non toglie gli anni, però come tutte le verdure italiche, buonissime. Tre bufale che è bene non credere. Immediate, siccome c'è una sicuramente, almeno noi nel gruppo italiano, mitteleuropeo, eccetera, abbiamo un eccesso di consumo di glutine. E spesso questo può essere correlato, quando è in eccesso, a fenomeni tipo meteorismo, gonfiore, eccetera. Quello che viene chiamata sensibilità al glutine non celiaca. C'è la gente che dice: se io ho questo problema, devo eliminare. Ecco. Allora, oppure non si pensa, elimina, ecco, mai. È solo la celiachia che fa eliminare, fine, è l'unica. E gli alimenti senza glutine non fanno dimagrire, no, lo diciamo? Perché... lo diciamo perché purtroppo sono c'è alimenti... gente che sceglie, certo, questa strada per perdere peso. Non si perde peso, no, mangiando un prodotto senza glutine, di quelli pre-preparati, eccetera. Poi gli altri cereali non glutinici possono essere utili, certo. Comunque la logica è che non va eliminato, punto. Secondo, che esistono un mucchio di intolleranze, e non è vero, c'ho scritto un libro sopra, peraltro. Le intolleranze alimentari non esistono. Esatto, che abbiamo già diffuso e che fa parte di un dato per cui le intolleranze sono solo due. Questa è una delle tipiche bufale. Uno oggi entra in un qualsiasi ristorante e ognuno sta dicendo che ha 8 intolleranze, che è una cosa assolutamente non esistente. Invece le due... che intolleranza sono al glutine di tipo celiaco, una, e l'altra che non c'entra niente con l'infiammazione, che è l'intolleranza al lattosio, che è l'unico sintomo che dà, può essere un po' di borborigmi intestinali, di diarrea, fine e stop, basta, non fa altro. Per cui questo è un altro. E una, che questa la terza, diciamo che è importante, così facciamo 1, 2, 3. Che saltando i pasti si dimagrisce. È vero, attenti, si perde peso, però la prima cosa che si perde è muscolo, quindi è un peso sano che si viene perso, e nel momento in cui uno dice: oh guarda, ho perso 3,5 kg, quindi sono contento, e inizio a mangiare tra virgolette normale, li riprende tutti con gli interessi. Quindi è una bufala che però rimane fissa nella testa delle persone, quindi ce la gestiamo bene, eh? Per questo Filippo, che al di là del vetro è in regia, la parte tecnica, i pranzi non li salta, ci sto facendo dei segnacci, ecco, ci sta facendo dei segnacci e ci ha già raccontato della sua cena pantagruelica. Allora, dottor Speciani, le fake news le abbiamo sistemate, ma alla bufala in tavola si parla anche di ricerca. Lo facciamo in realtà non solo alla bufala in tavola, ma ogni giorno a mezzogiorno, uno spazio dedicato alle notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Alcune di queste, quelle che hanno in qualche modo una relazione con il nostro stile alimentare, le portiamo anche alla bufala in tavola. Quindi, spazio per le ricerche tra poco. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24, la passione si sente anche in podcast. La bufala in tavola. Ecco Eccoci tornati insieme. Dopo le fake news apriamo il nostro spazio di news. In studio con me sempre il dottor Speciani. E quindi, dottore, apriamo questo spazio dedicato alle notizie di questa settimana e partiamo da uno studio tutto italiano che ha dimostrato che un batterio, l'Escherichia coli, che solitamente si trova nel nostro intestino, quando circola nel sangue può essere una causa di infarto. Lo studio è stato pubblicato su una rivista prestigiosa, l'European Heart Journal, e i risultati aprono nuove prospettive terapeutiche, fra le quali lo sviluppo di un vaccino che prevenga il processo trombotico. Riascoltiamo insieme il commento del professor Francesco Violi, che abbiamo naturalmente intervistato appena è stata pubblicata la notizia nel nostro spazio. Ve lo ricordate, ogni giorno alle 12:05 arriva una sorta di girino della salute, magnifico. Il professor Francesco Violi è direttore della prima clinica medica del Policlinico Universitario Umberto I, è lui che ha coordinato lo studio ed è lui che abbiamo intervistato. La novità dello studio è di aver trovato dei batteri intestinali in circa il 30% dei soggetti che hanno un infarto del miocardio. Sono batteri che nei soggetti sani non si trovano e quindi questa è la prima novità. La seconda novità è che questi batteri si concentrano nel trombo dei soggetti che hanno fatto l'infarto, perché l'infarto è dovuto a una trombosi delle vie, delle arterie coronariche. E quindi, concentrandosi lì, abbiamo ipotizzato che questo batterio, le capsule in particolare di questo batterio, potessero essere protrombotiche attivando le piastrine. E quindi, per spiegare il fenomeno, per corroborare questa ipotesi, abbiamo iniettato le Escherichia coli nei topi. E abbiamo dimostrato che effettivamente le Escherichia coli, alle concentrazioni simili a quelle che si trovano nel sangue dei pazienti infartuati, sono protrombotici, quindi accelerano la formazione del trombo. Infine abbiamo capito qual è il meccanismo attraverso cui i batteri attivano le piastrine, quindi fanno trombosi, e quindi nei topi abbiamo iniettato, oltre ai batteri, un antidoto che bloccasse l'interazione tra il batterio e le cellule, e con questo antidoto abbiamo ridotto la trombosi e quindi abbiamo trovato un nuovo meccanismo che collega batteri, trombosi e quindi eventualmente infarto. Speciani, questi risultati, oltre ad aver definito, come ben descritto dal professor Violi, un nuovo meccanismo che favorisce l'infarto, aprono anche delle prospettive interessanti per quello che riguarda la nostra dieta, l'alimentazione. Torniamo lì. Ma torniamo assolutamente lì, intanto perché abbiamo parlato, siamo qui alla bufala in tavola, quindi parliamo di Escherichia coli, e uno dice: questo qui è un battero, dove sta? Di solito sta nell'intestino, quindi sì, c'entra con il nostro discorso. La cosa più interessante è ricordarci due cose. Primo, che l'equilibrio dei batteri intestinali dipende da come mangiamo. Quindi noi possiamo anche rimpinzarci di probiotici, cose eccetera, tutto quanto che aiutano, ma se non cambiamo anche la parte alimentare non succede assolutamente nulla. Il secondo aspetto è che pure dal punto di vista immunologico, questa cosa che effettivamente ha confermato Violi, cioè la possibilità che ci sia una lesione dentro nelle arterie coronarie, cioè che si generi una malattia legata a questo, in realtà dipende da un aspetto infiammatorio, e i batteri si vanno a fermare lì se c'è uno stato infiammatorio complessivo. Ne abbiamo parlato 7000 volte e quindi sappiamo che in realtà il fatto di mangiare bene, di ridurre l'infiammazione, di controllare, ci darà una mano. Quindi abbiamo, anche qui stiamo facendo anche prevenzione cardiovascolare, siamo forti, dai. Grandi, grandi, e noi continuiamo. Eccolo qua, dottor Speciani, non è colpa del batterio. Le Escherichia coli non c'entrano i batteri in genere, ma è il virus dell'influenza. Puntuale come una cambiale, ci mette a letto, ogni anno è la stessa cosa, quest'anno picchia forte, sono oltre 2.268, vi dico proprio il dato preciso dal bollettino di sorveglianza Influenza a cura dell'Istituto Superiore di Sanità. Gli italiani colpiti, pensate che ci sono delle regioni più influenzate di altre: Piemonte, Lombardia, Liguria, Umbria e Lazio. Dottor Speciani, insomma, l'influenza poi ci lascia deboli, stanchi. Ci fa pensare alla primavera, all'estate. Poi riprendersi può essere faticoso, e soprattutto vogliamo evitare di riprenderci l'influenza. Ecco, questa cosa secondo me è molto molto importante, anche perché intanto dai, per i 2,5 milioni di italiani a letto, diciamo anche questo, diamogli un aspetto positivo, no? Sì, intanto ci siamo noi che vi teniamo compagnia, per cui evviva evviva, dai, state poi tranquilli. Potete farvi coccolare un po'. Assolutamente sì, e poi vi do una notizia immunologica positiva, che quando noi facciamo e superiamo un'infezione virale, in realtà stiamo dando una mano importante anche alle nostre cellule natural killer, che sono quelle che poi ci difenderanno in futuro anche da malattie degenerative e tumorali. Quindi non è male, cioè come se stessimo anche facendo allenamentino, eh? È certo che se questa roba va avanti e uno si prende un'influenza dopo l'altra, forse qualche ragionamento va fatto, però almeno vediamo un lato positivo, dai, è domenica. Un tempo dicevamo la convalescenza, no? Devi mangiare bene, che hai avuto l'influenza, devi riprendere. Che cosa mangiamo per soprattutto dormire? Roba fresca, cioè cibi freschi, frutta, verdura, quello che riusciamo ad avere in questa stagione. Ovviamente non abbiamo a disposizione quelli dell'estate, però già tra arance, mandarini piuttosto che kiwi, e cercare di utilizzare verdure in abbondanza, e quindi mantenersi idratati. Non dimenticare mai il fatto che in un momento in cui c'è l'influenza l'organismo perde il sistema immunitario, fa fatica, è come se perdesse muscolo, bisogna anche dargli delle proteine giuste, quindi un po' di pollo, un po' di formaggio, un po' di yogurt, cioè tutta una serie di elementi, delle uova, cioè piccoli elementi mangiati senza troppe cotture, che però possano consentire di recuperare bene anche la parte proteica. Vedi, a tavola non si invecchia, a tavola anche si guarisce. Assolutamente sì. A proposito di tavola, sulle nostre tavole arrivano prodotti, pane, pasta, biscotti, realizzati con la cannabis, perché è di pochi giorni fa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che fissa i limiti massimi di, attenzione che lo dico, allora abbreviato è THC, tetraidrocannabinolo. Bravissima, perfetto, ho detto benissimo, e vince una bambolina, meraviglia. Sì, vince una puntata della Bufala in Tavola. Dottor Speciani, che cosa ci racconta? Allora, la canapa ovviamente le persone la conoscono perché è entrata nella conoscenza culturale, legata anche purtroppo all'abuso di quella che è la parte stupefacente, ovviamente, che è legata effettivamente al tetraidrocannabinolo, in cui ribadiamo che stiamo parlando però di un alimento, è come uno parla del papavero, cioè il papavero lo guardiamo tutti con amore, ci mettiamo i semi di papavero, però se poi il papavero è un papavero da oppio, qualche dubbio, qualche problema ci nasce. Allora impariamo a distinguere. La canapa è un'ottima sostanza di per sé, sì. Consente ad esempio, uno degli elementi fondamentali è che la farina di canapa è una farina ricchissima di proteine, una delle più ricche di proteine, quindi può meritare un utilizzo in ambito culinario, in ambito nutrizionale. Dall'altra parte, il limite del tetraidrocannabinolo è giusto, e quindi non è che uno, se si fa i biscotti alla canapa, diventa come se si facesse capito? Ecco, dobbiamo evitare che ci sia questa sovrapposizione di pensiero, però ovviamente la canapa, che non raggiunge, come sono i limiti indicati dal Ministero della Salute, un certo livello, è un prodotto nutrizionale perfettamente utilizzabile. In linea con noi abbiamo anche un altro esperto, il professor Carlo Lavecchia, che è ordinario di statistica medica ed epidemiologia all'Università degli Studi di Milano, Ricercatore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Professore, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Che cosa aggiungono questi prodotti alla nostra dieta? Probabilmente molto poco in termini di tetraidrocannabinolo, perché i limiti sono tali che dal punto di vista tossicologico, più che epidemiologico, e quindi di stima del rischio, quello che si chiama risk assessment, livelli di questo tipo è improbabile che abbiano effetti di alcun tipo a livello neurotropo, cioè di modifica delle condizioni psichiche, e anche a livello nutrizionale, quindi dato il limite che è molto basso, sono prodotti che sia sulle condizioni psichiche sia sulle condizioni di salute hanno un impatto minimo o trascurabile. Certo, c'è sempre la possibilità di singolo soggetto che ne consumi quantità estreme, però di nuovo è necessario consumare quantità estreme, che diventa più che improbabile e impossibile. Vanno comunque molto di moda e piacciono. Sì, però ecco, vorrei evitare, cioè, la persona che si deve mangiare quantità estreme. Io ricordo quando, quando il professor Veronesi ci raccontava e diceva esistono sostanze tossiche dentro le piante. Aveva usato paradossalmente l'esempio del basilico. Sì. È ovvio, è vero che il basilico ha delle sostanze particolari, che è la meraviglia che nasce quando fai il pesto, e se ti mangi 12 kg di basilico probabilmente hai un effetto tossico. Cioè, lo diciamo da sempre che è la dose che fa il veleno dal punto di vista generale. Quindi io credo che sia difficile riuscire con i limiti posti dal ministero ad ottenere una utilizzazione di tetraidrocannabinolo stupefacente mangiandosi una torta di canapa. Questo sono d'accordo con lei, la vecchia. Ecco. Sì, sì, sono totalmente d'accordo, perché probabilmente non bisognerebbe mangiare una torta, ma tutto insieme 100 torte. Esatto. Sì, che se noi beviamo tutti insieme 15 litri d'acqua rischiamo di morire, quindi tutto a dosi inaccettabili può essere dannoso. No, il mio unico timore in questa vicenda è che venga usata a scopo di marketing, perché mentre l'impatto sulla salute, sulla sicurezza è verosimilmente nullo o trascurabili, come ho detto, può essere usato a scopo di marketing e quindi in qualche modo di trarre in inganno il consumatore piuttosto che aumentare i prezzi. Cioè. Perché ad esempio si legge in rete che gli alimenti a base di canapa aiutino a ridurre la pressione, alzare i valori di oppure i valori di colesterolo, si dice che si legge che rafforzino il sistema immunitario, sveglino il metabolismo. Ecco, anche qua sempre la bufala in tavola, facciamo un po' di distinguo, cioè attenzione, il professor Lavecchia diceva non vorrei che fossero utilizzati, no, a scopo di marketing. E nel corso della trasmissione abbiamo parlato di un episodio di 30 anni fa quando si è lanciato l'ananas come bruciagrassi piuttosto che, oppure del sedano, che è una meravigliosa verdura e che però ecco non è che ha 7 miliardi di attività positive, no? Quindi a volte il marketing può essere importante. Professore, soprattutto poi in queste dosi virtù terapeutiche questi prodotti non ne possono offrire. Ne hanno poche anche a dosi molto più alte, cioè voglio dire, utilizzo in terapia di qualche significato della cannabis su alcune forme di epilessia, ma la terapia anche a dosi adeguate con cannabis è ancora largamente aperta a discussioni. Va bene, professore, grazie per aver fatto un saltino alla tavola della bufala in tavola. Noi l'aspettiamo con qualcosa di buono. Grazie, buona domenica. Grazie a voi. Allora, noi ci fermiamo, ma ritorniamo. Nuove avventure, nuovi temi ci aspettano. Più delle virtù, spesso sono i vizi a dirci chi siamo. Le ombre, prima ancora delle luci. Per raccontarli, userò il metodo che conosco meglio. Le storie. Linee d'ombra è il nuovo programma di Radio 24 che racconta i 7 vizi capitali attraverso le storie di vita degli ascoltatori. Se volete raccontare una vostra storia di superbia, invidia, ira, accidia, lussuria, gola o avarizia, non perdete tempo. Scrivete una o due pagine e inviatele a lineedombra@radio24.it. Io sono Matteo Caccia e le racconterò ogni giorno alle 15 su Radio 24. La bufala in tavola. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, se sposti un po' la seggiola, stare più comodo tu. E aggiungiamo un posto, dottor Speciani, un posto speciale per una persona speciale, un'amica straordinaria che mi piace un sacco, Valentina Boccia, volto e firma del blog Ho Voglia di Dolce. Ciao Vale, bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Buongiorno. Il titolo che è una garanzia, no? Cioè, Ho Voglia di Dolce. Dolce. E già è bello così. Intanto anche il cioccolato. Brava, la tua passione per i dolci, in modo particolare per il cioccolato, tanto che tu scrivi sul tuo seguitissimissimo profilo Instagram, il cioccolato è sempre la risposta giusta. Risposta giusta, sì. Perché sul cioccolato si, col cioccolato si vince facile, io lo dico sempre, se si vuole far colpo, se si vuole sedurre anche, se si, insomma col cioccolato veramente si fa sempre bella figura, si fa un figurone a un compleanno, un'occasione speciale, dico sempre puntate sul cioccolato che veramente si, sicuramente guarda avete... è proprio vero, fai sempre bella figura, fai centro, sì. Piaci, è un po' come il tubino nero. Esatto. Va sempre bene, no? Piace, va infatti. Piace. Uno dice, sì. Cosa mi metto? Un tubino nero, vai. Un tubino nero. Ecco, elegante, cosa porto? Efficace. Brava, cosa porto? Una bella figura. Una torta di cioccolato. A me fa venire magnifico. In mente in orario tardivo, tubino nero e cioccolato. Che, cioè, vede, le due, vede, guardi le due associazioni. San Valentino è ancora lontano e tornerà a proposito di cioccolato. A proposito del cioccolato, il cioccolato è anche associato all'amore, ecco, a San Valentino, quindi un motivo ci sarà. Un motivo, anzi, magari più di uno, dottor Speciani, più di uno. E oltre a piacerci è un prodotto, un alimento, è l'alimento degli dèi. È fantastico. Ecco, che già ci piace ma anche ci fa stare bene. Ecco, io già parlo però di lei cioccolato, già... no, ma parlo, penso, nel mio immaginario da anni in cui suggerisco il cioccolato, che però deve essere un cioccolato noir, non deve essere un cioccolato a bassa contenuto di cacao, quindi penso al piacere delle fave di cacao, tra l'altro anche queste sono meravigliose, io parlo più in termini di cacao. Poi quando trovo persone come Valentina che sanno declinare la percentuale alta di cacao in qualcosa di fantastico e buono da gustare, è meraviglia, perché a quel punto si associa salute, benessere, piacere e gusto. E guarda, sai fatto perché bingo. È così bello? Lui è sempre molto pimpante, ma adesso, prima di che tu ci venissi a trovare, gli ho fatto vedere al dottor Speciani le foto dei tuoi dolci e ho visto che... Dottor Speciani, vero? A proposito, Vale, che cosa ci hai portato? Perché noi ti abbiamo invitato per il piacere di averti, ma anche perché ho detto dulcis in fundo, la Vale ci porterà un dolce al cioccolato. Ovviamente, su cosa posso portare? Una bella torta al cioccolato, che è una torta veramente molto semplice, però è d'effetto. La base si prepara subito, veramente in 10 minuti, con uova, zucchero, farina, un po' di yogurt, quindi è molto soffice, però è molto particolare perché si creano tanti buchetti in superficie una volta sfornata e si aggiunge il cioccolato fondente fuso. Quindi e non solo è bella da vedere, ma quando poi si taglia, ovviamente è una sorpresa un po' per tutti, perché non si aspettano questa colata di cioccolato e quindi ingolosisce proprio al primo sguardo. E con questa, come l'hai chiamata? Fiume di cioccolato? Questa si chiama poke cake al cioccolato, che appunto significa un po' bucare, quindi vedi. Si buca la torta e poi si crea questo effetto molto ogni fetta una goduria, ma c'è un e momento poi, hai usato la parolina magica, hai detto di cioccolato fondente, fuso. Cioccolato fondente, vedi. Sì. Anche lei si è adattata. Io sono assolutamente pro cioccolato fondente, infatti è l'unico che uso nelle mie ricette, forse un po' quello al latte, ma più che altro perché piace più ai bambini, ma il cioccolato fondente per me. Senti Vale, ma da che cosa è nata questa tua passione? Quando è nata? Eri piccola? È stato... Io ero piccolissima, avevo 4 anni e mi piaceva già pasticciare un po' con la nonna, quindi creare questi dolci. È proprio uno dei miei ricordi più importanti, che poi da poi è derivata la mia passione per la pasticceria e per i dolci, è proprio creando un ciambellone al cioccolato. E mi ricordo che aggiungere questo cioccolato fuso a un composto così montato come zucchero si trasforma in questo ciambellone alto, soffice, pieno di cioccolato, creava in me appunto delle emozioni e poi da lì è nato un po' tutto il mio lavoro, la mia passione. Tu sei seguitissima, perché perché oltre le ricette sono squisite, facili. Io ho 2 milioni di golosi. Ecco, 2 milioni di golosi, d'altronde il cioccolato, c'è qualcuno a cui non piace il cioccolato, secondo lei, dottor Speciani? No. Sì, qualche rarissima persona. Rarissima. Le tue ricette sono squisite, ma si vede, poi tu trasmetti tutta la tua passione. Mi fa piacere, questo mi fa piacere, perché oltre ad essere veramente è una passione che ho da piccola e anche ecco, quando io ho creato il sito ho proprio il mio motto è creare piccoli istanti di felicità, un po' come il cioccolato se ci pensiamo, che crea piccoli istanti di felicità, perché per le occasioni speciali io entro un po' in maniera indiretta, in punta di piedi nelle occasioni delle persone. Sì. Tu sei sempre lì che festeggi con chi ti segue. Sì, io festeggio Vedi? Sempre, ogni giorno per me è una festa. Dottor Speciani, Valentina scrive sul suo profilo Instagram che il cioccolato è sempre la risposta giusta. Ma c'è un momento della giornata migliore di un altro per gustare il cioccolato? Dal punto di vista nutrizionale, salutistico, no, in modo particolare, perché è un po' come quando uno dice c'è un momento per gustare il caffè. Tra l'altro ci sono dentro molte delle sostanze che sono dentro nel cacao, sono presenti anche nel tè, nel caffè. Non è casuale che questa cosa sia ricercata a livello mondiale un po' da tutti. E d'altra quindi, parte quanto è buono. È buono. Vale. Cioccolato fondente in una tazzina, poi ci fai sopra il caffè. Beh, questo è proprio tipicamente lombardo. La barbagliata. Un pezzettino di cioccolato, una piccola una fetta di torta al cioccolato, una buona compagnia, una serata invernale pomeriggio e ci si riconcilia con il mondo. Io questo dico. Anche per chi ha dieta, dottor Speciani. Ma pensa che anche alle persone diabetiche noi diciamo che un po' di sgrattugiamento di cioccolato magari sul loro yogurt, sulle cose eccetera, glielo lasciamo anche durante il giorno proprio come aggancio positivo anche ad quel minimo di dolce che c'è dentro e che rimane positivo, dai. Un comfort food. Esatto. Sì. Valentina, grazie per essere stata con noi, grazie per la torta. Grazie a te. Buona, la mangiamo dopo. Speriamo che ne arrivino altre. Noi continuiamo a seguirti, Valentina, per delle ricette sempre più buone. Io le sto provando anche con Laura. Ci metteremo in cucina e poi posteremo le nostre torte. Così tu ci dai il voto. Sì. Va bene. Sicuramente sarà alto. Grazie, mi piace grazie. Così. Buona giornata. Buona giornata. Valentina Boccia. Allora, il dolce ce l'abbiamo. Prima non saltiamo, no? No, questo lo sono qui apposta, l'ho detto prima, non si bene. Salta. Poi forse facciamo io lo chiamiamo un digiuno breve, stasera, che così domani possiamo ripartire con gioia e con le nostre affrontare comunicazioni. Affrontare la settimana. Io vi aspetto, come sempre, domani mattina alle 6:15 per iniziare bene la settimana, poi a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e per la nostra diretta Facebook. Non mancate, intanto vi ricordo che siamo sui social, quindi seguiteci, siamo anche su Instagram. Nicoletta Carbone 2019 e poi naturalmente sulla pagina di Obiettivo Salute. Teniamoci in contatto, amici. Buona giornata, buona domenica. Un saluto dalla vostra salutare ossessione quotidiana.